pensare che diminuendo il sovraffollamento sarebbe pesato di meno la bruttura del carcere sulla pelle di chi vi viene buttato dentro, perché il sovraffollamento è calato ma i suicidi non sono calati. E poi appunto, quindi diciamo divideremo la trasmissione in una parte in cui parliamo di ciò che succede, la cronaca, e in un'altra parte in cui vedremo insieme di ragionare intorno alla prospettiva che avrà il carcere, il sistema repressivo degli stati moderni, in questo caso dell'Italia, che però è abbastanza in sintonia con quello degli altri stati europei. Le differenze sono di tempi, però insomma si va verso un certo modo di attuare la repressione, sia verso il conflitto sociale sia verso il cosiddetto disordine sociale, cioè i furti, le rapine, cioè la violazione della legge, e soprattutto nei confronti della marginalità sociale, cioè quelle persone che non hanno un reddito, che non hanno possibilità di avere, diciamo, di che vivere se non attraverso pratiche e attività illegali, estralegali insomma. E questo dopodiché appunto vedremo insieme, ragioneremo insieme con dei fatti nuovi che si stanno, ormai li vediamo giorno per giorno davanti a noi, questo grosso fenomeno di immigrazione che ormai l'ha detto l'ONU, lo dicono tutti gli osservatori, durerà 20-30 anni e porterà, che piaccia o non piaccia ai vari governanti, porterà milioni di persone su questa terra, milioni di persone che provengono da situazioni devastate, da guerre, da povertà, cioè da questa crisi del capitalistica che in qualche modo propone una ristrutturazione che aumenta le differenze sociali. Cioè ci sono paesi che sprofondano nel baratro della miseria, della fame o addirittura della guerra civile, e altri che invece si arricchiscono, così come all'interno degli stessi paesi, lo vediamo qui in Italia, le differenze tra popolazione povera e popolazione ricca si sono di molto aumentate. Questi dati sono ufficiali, non è che li diciamo noi, cioè dal 2007, anno di inizio della crisi più o meno, il differenziale tra diciamo realtà marginali, povere, anche di lavoratori, e quelle diciamo ricche, benestanti, degli imprenditori eccetera, è aumentato di molto, più del resto d'Europa. Anche nel resto d'Europa è aumentato, perfino nei paesi cosiddetti del nord Europa, che vengono presi a simbolo di un'equa distribuzione della ricchezza. La differenza è aumentata perché questo produce la crisi, si chiama crisi ma la parola non è esatta, è una ridefinizione dei rapporti all'interno del quadro capitalistico, che serve proprio a togliere, come direbbe volgarmente, se siamo al bar, no? Ci rubano dalle tasche i soldi, ecco, questo avviene, non lo fanno materialmente, cioè non è che una mano si infila nella tasca e ci toglie i soldi, però il processo è lo stesso, tolgono i soldi, quindi portano un malessere maggiore alle persone povere, perché con quei soldi devono aumentare i processi, i percorsi di capitalizzazione, perché sono i grandi capitali che poi muovono l'economia, no? E quindi rilanciare l'economia significa aumentare l'accumulazione capitalistica, e questo lo si fa, siccome i soldi non si creano, si devono togliere da qualche parte, da chi? Dalle parti appunto più povere. E questi sono i due, e vedremo questa cosa, perché è importante capire dove si snoderà insomma il percorso della repressione, cioè che strumenti attuerà, che pratiche porterà avanti, in modo che poiché ci dobbiamo opporre alla repressione, non si può abolire da un giorno all'altro, si può resistere, però tamponarla, respingerla, e quindi capire dove va ci permetterà di mettere a punto degli strumenti per appunto resistere all'invadenza della repressione. Falling off the end of the scale, you carry on. moment of truth. Don't be distracted. Don't be the fool. Allora, questo iniziamo appunto da ciò che abbiamo letto dai giornali, che si è saputo intorno al carcere in questi giorni, in questa settimana. Molta stampa ha dato, e anche la televisione ha dato in maniera eclatante spazio ai morti, quei ragazzi morti nelle strade di Napoli. Qualcuno titola Baby Killer, insomma. Qualcuno ha titolato Grande ripresa della Camorra, insomma. Il problema non è nuovo, ovviamente, per chi segue le vicende di Napoli. Il punto centrale è che, per fortuna, qualche giornale prova a ragionare, nel senso che proprio qualche tempo fa, appunto, qualche giornale l'ha notato, vi era stata una conferenza stampa del questore, dei vari servizi così di polizia, che avevano detto: abbiamo fatto un sacco d'arresti a Napoli, quindi abbiamo quasi sgominato la Camorra, e poi avvengono questi fatti qui. Il problema, allora, qualcuno dice, forse non è che la Camorra, o comunque la malavita organizzata, in queste situazioni, in queste zone, viene sconfitta con arresti, controarresti, misure di polizia. Adesso vogliono mettere l'esercito per le strade, insomma, militarizzando sempre di più la città. Non è così, perché l'esperienza, non solo in Italia, in tutti i paesi del mondo, non funziona così. Risulta che più si militarizza una zona, più, anzi, si dà spazio alle attività illegali pesanti, cioè quelle organizzate e armate. È chiaro, perché sono gli uniche che riescono a muoversi in un territorio militarizzato. Più sono organizzate, e quindi con armi da fuoco, e più possono portare avanti le proprie attività in una città militarizzata. Il problema è un altro, e questo qualche giornale comincia a buttarlo lì. È un problema che evidentemente in alcune zone di Napoli, come in altre zone d'Italia e del mondo, non c'è altro modo per avere un reddito per campare. Il problema, quindi, è che lo dicono chiaramente anche il Mattino, intervista alcuni sociologi oppure analisti del fenomeno, e dicono: sì, è chiaro che se volete, diciamo, sconfiggere la Camorra, non basta fare gli arresti, bisogna creare delle strutture, lavoro, reddito, possibilità per i ragazzi di trovare uno sbocco, diciamo, salariale, un reddito in grado di assicurarli. Altrimenti è chiaro che, se rimane solo quella la possibilità, e in realtà, secondo alcuni sociologi che hanno visto sul campo la situazione a Napoli, in realtà in alcuni quartieri c'è solo quella possibilità. Cioè, un ragazzo, una ragazza raggiunta l'età di 18 anni, usciti da scuola, l'età in cui uno ha bisogno di avere, o anche prima, secondo lo stato della famiglia, non c'è altro modo per trovare. Sì, si cerca, ma non si trova niente, e invece si trova possibilità nell'attività illegale. E quindi è chiaro che, se rimane così, il passaggio è obbligato, non c'è polizia che tenga. È anche abbastanza ridicolo, penoso, squadra valido il ricorso alle forze dell'ordine se l'obbligo quasi a un'attività extralegale deriva dalla condizione economica in cui si versa una particolare zona. Questo è normale, e la cosa noi lo diciamo da tempo, chi sente questa radio lo diciamo da sempre, però è per fortuna che questa volta, siccome questi due ragazzi morti a Napoli ha coinciso, è stata molto ravvicinata a una conferenza stampa della polizia che diceva abbiamo sconfitto, abbiamo arrestato, abbiamo, è chiaro che è risultato totalmente chiaro che appunto l'azione poliziesca di per sé non cambia nulla, non modifica nulla, deve essere un'azione politica, economica, di risanamento di un territorio che può permettere appunto con la possibilità di trovare lavoro e sbocchi lavorativi, e anche una riurbanizzazione della zona che non è mai, che hanno sempre tutti i politici l'hanno sempre raccontata, perché sono dei quartieri talmente degradati, talmente devastati in cui appunto non c'è attività lavorativa, non c'è possibilità di vivere se non facendo quell'attività lì proposta da quelle bande che quei quartieri tengono in pugno. E questo è il problema. Allora, questa riurbanizzazione, il decollo economico, lo sviluppo diciamo di queste aree, permettere ai giovani di trovare lavoro, è voluta oppure è soltanto dovuta ad abbenaggine, alla stupidità dei governanti? Questa domanda la fanno i giornalisti, ce la facciamo anche noi, la risposta credo che sia abbastanza scontata, però la lasciamo anche a voi, perché è bene tenerla a mente, se non altro perché quando questi chiacchieroni vengono a fare queste loro prosopopee, abbiamo sconfitto, abbiamo arrestato, abbiamo fatto, perlomeno qualche fischio insomma se lo possono meritare. Thank you. un'altra cosa è successa poi quasi da ridere, però non viene, non si dovrebbe ridere, perché anche questa poi porta con sé diciamo l'uscita dal carcere o meno. Allora la riporta Repubblica questa notizia, la riportano anche altri giornali. Allora è successo che alcuni detenuti avevano raggiunto la possibilità di avere gli arresti domiciliari, cioè hanno maturato le possibilità di avere una misura alternativa invece del carcere secondo le leggi esistenti, e quindi avevano, però appunto il procuratore generale aveva chiesto che, poiché erano persone diciamo che riteneva pericolose, che oltre agli arresti domiciliari si potevano andare, però dovevano avere quello che si chiama ancora braccialetto, anche se è una cavigliera, per controllare che non uscissero, che non facessero movimenti diversi da quelli stabiliti dal programma di misura alternativa. E quindi questi sono messi in fila per chiedere appunto il braccialetto, ossia la cavigliera, per poter andare all'arresto domiciliare. Il ministero ha risposto che non aveva, le aveva finite, non le aveva. Qui c'è tutto un problema, perché nel 2001 si pose questo discorso, ne parlammo pure, ricordate, e il ministero della giustizia, tramite il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fece un contratto con Telecom, perché sono strumenti che poi vanno monitorati utilizzando il meccanismo dei telefonini, no? E quindi ha cacciato pure parecchi soldi in tutto in questi, dal 2001 pare che la fornitura doveva essere 2000 cavigliere circa, per complessivi 521 milioni di euro, pure abbastanza caro, quindi Telecom ci ha fatto un bel affare. Poi è successo che ovviamente questa convenzione con Telecom, tra Ministero della Giustizia e Telecom, è stata rinnovata sempre senza gara pubblica, ma con una gara privata. E in realtà invece, come sono tante, prima c'era solo Telecom che faceva il servizio telefonico, adesso sono tanti e quelli che lo fanno, Vodafone, tantissime, come sapete tutti, no? Bene, si poteva fare una gara pubblica, così può darsi che risparmiava qualcosa, no? Facevano a scalare, e invece hanno fatto una licitazione privata sempre con Telecom. Il problema è che poi queste cose sono finite in qua, poiché gli ultimi decreti, ricordate, ne abbiamo parlato, i cosiddetti decreti svuotacarceri, quelli messi in piedi, ne ha fatti quattro il governo dal 2012 fino al 2014, perché la Corte Europea aveva sanzionato l'Italia perché teneva le carceri in condizioni pessime, e soprattutto perché erano sovraffollate, in quanto non venivano usate le misure alternative. Allora hanno fatto dei decreti che facilitano la possibilità di andare a misura alternativa, aumentando fino a 4 anni per pene non superiori a 5 anni si poteva andare direttamente in misura alternativa, eccetera. E quindi le misure alternative sono state, diciamo, sono intensificate. Per molti di questi casi il procuratore, il pubblico ministero, chiedeva il braccialetto elettronico, insomma, la cavigliera. E quindi questi sono finiti, non ne hanno, non so che contratto hanno fatto, sicuramente un contratto capestro, che se te ne servono altri non te ne danno, insomma sta di fatto che non sono arrivati. E quindi il quale è successo? Che il carcere dice: qui c'è scritto che tu puoi uscire e andare agli arresti domiciliari se c'hai la cavigliera elettronica, se non ce l'hai non arriva, quando arriva andrai in arresti domiciliari, se non arriva rimani in carcere. Qualcuno di questi detenuti ha fatto ricorso tramite il proprio avvocato, e in effetti la Corte ha dato ragione ai detenuti, ha detto: se mancano le cavigliere, la responsabilità non è del detenuto, la responsabilità è vostra. Se voi non siete in grado, caro Ministero, di fornire le cavigliere, visto che il pubblico ministero chiede che ci sia la cavigliera elettronica, chiamato braccialetto, ma appunto in realtà è una cavigliera, voi non le fornite, e che non potete tenerlo in galera se questo può essere scarcerato e mandato in arresti domiciliari. E così ha detto: dovete metterli fuori, e sbrigatevi, visto che è un obbligo vostro, a trovare altre le famose cavigliere. E insomma, ogni tanto succede, ma questa era una cosa di buonsenso. È chiaro che un giudice, se ragiona soltanto, non poteva che dare ragione ai detenuti, perché è ovvio che non è che io mi devo procurare la cavigliera, sei tu un ministero, il dipartimento deve, se non la trovi è chiaro che sei un po', diciamo, manchevole. Oh, questa invece, questa notizia farà un po' ridere, sempre nella tristezza che aleggia sul carcere. Allora, nel carcere di Taranto hanno fatto un accordo che loro dicono è un accordo, diciamo, guida, il primo accordo di questo tipo che poi aprirà la strada a tanti altri. Vabbè, è un accordo tra Confagricoltura e la direzione dell'istituto penitenziario di Taranto. Allora, che cosa prevede questo? Prevede che un gruppo di detenuti, quelli che possono essere ammessi al lavoro all'esterno, sarà impiegato nella coltivazione di un campo di 2 ettari, che però risiede subito all'esterno, limitrofo al muro di cinta del carcere. È attualmente inutilizzato, così ci sono le sterpaglie sopra. È di proprietà del carcere questo pezzo di terra, questi 2 ettari di terra. Stanno appena fuori del muro di cinta e quindi... che prevede questo accordo? Prevede che questi detenuti andranno a lavorare appunto in questo campo, verranno, come dire, gli verrà insegnato il mestiere di coltivatori, perché non lo sono necessariamente, non tutti sono, qualcuno forse sa fare qualcosa, no, verranno addestrati e poi metteranno su questa impresa agricola modello, dicono loro, in cui c'è il carcere, gli assistenti, Confagricoltura che darà gli strumenti, i mezzi e anche le indicazioni, l'informazione per fare, e faranno i coltivatori. Bene, questi usciranno, secondo i termini del regolamento, in articolo 21. Articolo 21 è quell'articolo del regolamento penitenziario che permette di uscire in lavoro all'esterno. È un po' come la semilibertà, però non è come esattamente come. L'articolo 21, tu stai in carcere, la mattina ti svegli, esci, in questo caso escono appena fuori al muro di cinta, però insomma, comunque esci dal carcere, vai a lavorare, finito di lavorare rientri in carcere, quindi non hai possibilità di vita all'esterno, se non stai all'esterno soltanto il tempo necessario a lavorare e il tempo di percorrenza tra il carcere e il posto di lavoro. Questo è l'articolo 21, mentre la semilibertà permette anche degli spazi di, come dicono loro, ripresa degli affetti, quindi poter andare in famiglia, stare con i tuoi e poi rientri la sera in carcere. Però chiaramente, evidentemente, non avevano, questi non hanno maturato diciamo il tempo per avere la semilibertà, che il tempo maturato è metà pena. L'articolo 21 si può avere anche presto, dipende dal comportamento del detenuto o della detenuta, e questo l'hanno fatto questa volta. Ora, a parte questa cosa, ora uno che ragionamenti può fare? Primo, gli insegnano a fare i contadini, a coltivare la terra. Ora, quando finiranno il carcere e usciranno, c'è spazio in questa società perché i coltivatori possono vivere dignitosamente coltivando un pezzo di terra, quello che sia? Ovviamente no. Chi gli darà un pezzo di terra per poter mettere in pratica quello che hanno imparato in questa azienda agricola modello? E quindi, come vedete, fa un po' ridere. Poi, il problema, un'azienda agricola modella, ammesso che riescano a farla veicolare questi dopo finita la pena, no? Riesce a mettere in, come dire, a recuperare quel tot di diciamo di vendita, diciamo di vendita poi dei prodotti, per poi mantenere, permettere un salario dignitoso a questi qui? Ovviamente no, perché noi sappiamo tutti che, lo dice anche la televisione, fanno spettacolo, dice la radio, i giornali, in questo paese Italia, in questi tempi, le aziende agricole non modello, ma quelle che però vanno alla grande, sfruttano, soprasfruttano, ultrasfruttano il lavoro degli immigrati per raccogliere i prodotti agricoli pagandoli niente, tipo un euro e mezzo, 2 euro l'ora, e solo così riescono ad avere un profitto sui prodotti agricoli. Questi qui, siccome invece lavoreranno da soli, come faranno a tirare avanti? Quindi, come vedete, sono cose di carattere, credo, abbastanza risibile, però l'hanno fatta e sono sono così. Sono questi, questi così, questi, queste buttate che permettono poi di farsi bello. Hanno fatto l'accordo modello con Confagricoltura. Allora, 15:35, quasi 36. Veniamo allora alla seconda parte della trasmissione, quella di, per cercare di ragionare che cosa succederà che, nel proseguo, nei prossimi anni, al percorso della repressione che gli stati mettono in atto per controllare, per mantenere l'ordine, l'ordine attuale, l'ordine ferreo all'interno del quale è possibile, secondo loro, la riproduzione del sistema economico attuale, ossia del sistema capitalistico. Allora, ci sono dei fatti nuovi, oggi è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, questi arrivi numerosi, questa ondata di migrazione che arriva in parte dal mare, ma anche da est e poi più o meno da tutte le parti, di masse di immigrati che provengono da guerre, guerre in Sicilia, o da impoverimenti tremendi, dalla fame, eccetera, che entrano in questo, cercano di entrare in questi paesi con tutte le vergogne, i morti in mare, è stata una cosa tremenda, l'avete vista, le vediamo tutte, oppure quelli, i morti provenienti dall'est, la figura di quel bambino morto sulla spiaggia ha fatto il giro del mondo, tutti si sono, ma io capisco che poi questo è come il caso di Mastro Giovanni, no? I DSO c'erano da tempo e provocavano morti, ci sono ancora e ci saranno finché non li fermiamo noi, però il caso di Mastro Giovanni, siccome fu in qualche modo casualmente c'era la cinepresa che l'ha ripresa, quelle ore di agonia, di sofferenza, di tortura che ha vissuto quest'uomo grazie al TSO, e quindi la gente si è indignata. Anche qui sono indignati, ma hanno visto troppi morti. D'accordo, è un fatto umano l'indignazione, per carità, non voglio dire niente, però cerchiamo pure di cercare di capire perché avvengono dei fatti, che cosa possono provocare e che cosa aspetta a noi fare. Gran parte dei cittadini europei di vari paesi hanno dimostrato una grossa sensibilità quando scavalcando i governi, anzi contrapponendosi ai governi, è successo in Inghilterra, in Germania, in Francia, ovunque, anche in Italia, si sono messi dalla parte dei migranti e hanno offerto loro accoglienza laddove gli stati e le istituzioni gliela negavano, anzi gli davano bombe lacrimogene, manganellate e in qualche caso anche piombo. Quindi è stata una bella opera, d'accordo, però va bene, diciamo la solidarietà va bene, però la solidarietà rischia di essere un fatto punti, cioè a macchia di leopardo, si svolge oggi, poi si riproduce fra alcuni mesi. Noi dovevamo affrontare le questioni un po' più complessive. Che cos'è questo fenomeno di immigrazione che secondo le carte dell'ONU parla di diverse decine di milioni, se non centinaia di milioni, di persone che schiacciate dalla fame, dalla miseria, oppure dalla guerra, dalla schiavitù, vengono, cercano altre terre per poter vivere. Che cos'è? È quello più o meno che questo paese, poi noi appunto dovremmo esserne esperti, un paese come l'Italia che ha visto negli anni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento la fuga di 29 milioni, parlo di, non è uno scherzo, 29 milioni di italiani sono fuggiti da questo paese per trovare una terra d'accoglienza o oltreoceano, negli Stati Uniti d'America o in Canada o in Sud America, perfino in Australia, oppure anche in Nord Europa. 29 milioni, di cui 4 sono rientrati, circa, quindi 25 milioni di italiani sono partiti e non più tornati. Bene, bene, male, insomma, quindi dire, fare gli stupidi, per chi ha visto, per chi, ciascuno di noi ha sicuramente un antenato che ha fatto il migrante, è da cretini, se non altro. Non si può accettare qualcuno che dica: ah, fermiamo l'immigrazione. No, non si può fermare. Non la possono dire i cittadini di un paese che hanno prodotto forse più migranti che tutti gli altri. 29 milioni rispetto a una popolazione che allora sommava a 40 milioni, 40-45 milioni di persone, tanto faceva l'Italia, è più della metà, quindi più della metà della popolazione italiana se n'è andata. Perché? Beh, bisognerebbe chiedere a loro, e chi, siccome sono nostri antenati, ce l'hanno detto, probabilmente perché qui si viveva male, c'era la prima guerra mondiale, ha fatto un massacro inaudito, le crisi della fine dell'Ottocento, 84, 86, 88, c'erano ogni due anni, impoverivano, massacravano la gente, la riducevano alla fame. Poi è venuto il colpo di genio dei Savoia, che hanno messo la ferma obbligatoria, il servizio militare a 5 anni, quindi portavano via i ragazzi dalle famiglie di agricoltori, di pastori, portavano via i ragazzi per 5 anni per la ferma militare, e insomma, poi guerre, cose, disastri, massacri, carestie, fame, poi è venuto il fascismo che ha peggiorato le cose, e quindi la gente se n'è andata in altri paesi. Periodicamente succedono queste, appunto, c'è stata la grossa migrazione a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, enorme, che dall'Europa sono partiti per altri vidi, e hanno infatti ritrovato in tutto il mondo. Adesso avviene un po' il contrario, da altre parti, perché sono quelle aree che subiscono guerre, devastazioni, impoverimenti, fame, carestie, eccetera. Di chi è la colpa? La colpa è sempre, c'è una colpa, cioè c'è una responsabilità, chiaro. Una guerra qualcuno la dichiara, non è che non è come un terremoto o una pioggia. Quindi i governanti dichiarano le guerre, quindi le responsabilità sono loro. La fame deriva spesso dallo super sfruttamento che le multinazionali o le grandi potenze fanno di paesi periferici, e sempre più le sfruttano, distruggendo per esempio l'economia agricola, proponendole monoculture che distruggono la varietà agricola che permetteva di campare a delle popolazioni, quindi distruggono e portano alla fame le persone. E queste che devono fare? Chiaramente la voglia di vivere, per fortuna, negli esseri umani è tanta, e quindi si spostano. E non sarà qualche imbecille che dice baggianate che fermerà quest'ondata. Durerà 20-30 anni, forse anche più, e porterà milioni di persone qua. È un fatto ricorrente nella storia dell'umanità, basta non essere ignoranti come talpe e sfogliare la storia di questa umanità per capire che ce ne sono state tante. E poi appunto noi dovremmo essere maestri nel capire le ragioni dell'immigrazione, perché ciascuno di noi ci ha avuto sicuramente, se dice di no è perché l'ha rimosso quel problema, ci ha avuto sicuramente un antenato che ha fatto o ha tentato di fare il migrante. Bene, male. Che porterà questo? Ora, il tema è grande, perché si producono queste cose, appunto perché il sistema capitalistico produce queste cose, l'ha sempre prodotte e sempre le produrrà. Le guerre sono un momento di grande investimento di capitali, perché portano profitti enormi. Gli stati, i gruppi sociali che dirigono gli stati portano la gente al massacro per migliorare, per diventare più potenti, più forti loro, non la gente. Insomma, quindi queste sono le ragioni che oggi noi non è che sì, dobbiamo lottarci contro, ma non è che pensiamo di fermare. Noi ci dobbiamo porre un altro problema. Questa grande massa di persone che arriverà inevitabilmente in questo paese, che cosa produrrà? Produrrà delle cose. Intanto questi verranno utilizzati subito, già sono utilizzati subito come forza lavoro. A prezzi bassissimi, perché data la loro condizione di difficoltà di avere appunto un lavoro, necessariamente si devono accontentare appunto di un lavoro a nero, sottopagato, ultra precario, eccetera. Questo già avviene, lo dicono appunto anche i media ufficiali, la raccolta, lo dicevo prima, no, degli ortaggi o dei mandarini, tra un po' quando sarà l'inverno, dei pomodori adesso e così via, viene fatta da lavoratori immigrati che pagati molto meno di quanto una persona immagina, perché un euro e mezzo l'ora è molto, è quasi peggio dello schiavitù. Vabbè, però appunto modificheranno quindi la composizione sociale di quello che noi chiamiamo la classe lavoratrice, ossia il proletariato, cioè quelle persone che non hanno nulla, non sono proprietarie di nient'altro se non della propria forza lavoro. Forza lavoro che non significa saper fare delle cose, quindi qui tutte quelle chiacchiere che fanno molti giornali, ah ma quegli immigrati, quelli sono diplomati, laureati, quest'altri invece sono analfabeti, quella cosa conta poco, perché la forza lavoro viene utilizzata non per quello che sa fare, ma per la sua disponibilità ad essere collocata in un punto del processo produttivo. Questo sia chiaro per tutti, quindi non ti utilizzano perché tu sei una persona istruita, può darsi sì, ma può darsi no, ti possono mettere pure a raccogliere pomodori anche se c'hai due lauree, non è un problema, ed è un fatto reale. Tanti lavoratori che lavorano per esempio facendo i facchini, cioè quindi che scaricano o manipolano le merci, sono laureati, sono ragazzi che sono venuti qui con la laurea, oppure stanno facendo studi importanti, però non hanno trovato altro lavoro se non quello di fare i facchini, e quello fanno, quindi non è quello il problema. Il problema è dell'utilizzo della forza lavoro, che è a pieno e totale discrezionalità dell'imprenditore, del padrone. Questo sia chiaro. Oggi è così, perché il sistema capitalistico prevede questa cosa qui. E allora, che produrrà quindi un cambiamento enorme, sul quale opererà ovviamente la repressione. Già lo opera, perché i CIE non a caso sono nati quando è iniziato questo flusso migratorio molto intenso, perché prima in Italia appunto era più che altro un paese che produceva immigrazione, non che non era terreno su cui arrivava l'immigrazione, erano soggetti che emigravano e quindi non avevano bisogno di fare i CIE o i CPT come vennero chiamati all'inizio. Quando è iniziato questo grosso processo si è trattato di regolare questi flussi migratori, come? Col controllo alle frontiere, con i massacri eccetera, ma anche con quelli che arrivano, verificando chi era col permesso, senza permesso, diciamo, come giocando su questa forza lavoro, tenendola in parte libera, in parte disponibile ad essere sfruttata, in modo che il costo dell'ora di lavoro di queste persone calasse sempre di più a beneficio dei padroni. Except for the drilling in the wall. have been lifted and the gambling wheel shut down. Anyone with any sense had already left town. He was standing in the doorway, looking like the Jack of Hearts. He moved across the mirrored room, sitting up for everyone, he said. Then everyone commenced to do what they were doing before he turned their heads. Then he walked up to a stranger and he asked him with a grin, "Could you kindly tell me, friend, what time the show begins?" Then he moved into the corner, face down like the Jack of Hearts. Ci dispiace interrompere Bob Dylan, ma qui il tempo scorre e sono le 15:49, abbiamo solo 10 minuti ancora. Dunque, per così fare un po' un quadro, torneremo su questo argomento perché è centrale e decisivo. Diciamo quindi, il dato di fatto è che questi grossi flussi migratori che continueranno e anzi si intensificheranno, piaccia o non piaccia ai governanti di questa stupida Europa, agli stupidi governanti di questa Europa, ecco, mettiamola così. E attualmente sono stupidi, poi vorrebbero pure cambiare, non ci speriamo tanto, ma insomma, attualmente sono stupidi perché non capiscono che cosa maneggiano e che cosa succederà. E dunque sarà inarrestabile e invaderà i nostri territori. Cambierà quindi la composizione in parte, e già la sta cambiando, della classe operaia, della forza lavoro, di quelli che producono, che non hanno nulla, appunto dei proletari. Questo produrrà un diverso modo di questo insieme di classe operaia nell'affrontare le proprie difficoltà. Lo stiamo già vedendo, già sta succedendo, quindi aprite gli occhi, guardatevi intorno. Per esempio, se voi vedete le occupazioni di case, ad esempio, che in questo paese sono state, e soprattutto in questa città, sono state una cosa da sempre in questa città, essendoci stata sempre una dittatura dei palazzinari, qualunque regime ci sia stato, no? C'era la dittatura dei palazzinari sotto Giolitti, sotto Mussolini e anche sotto i democristiani. Cioè i palazzinari hanno sempre fatto come, hanno cementificato come volevano, hanno alzato i prezzi delle case da affittare come volevano, per cui si è sempre creato una tensione sul problema alloggiativo e si è sempre creata un'occupazione delle case. Voi pensate che la Repubblica Romana, quella che abbiamo le statue sul Gianicolo, andatela a vedere, no? Quella di Garibaldi, Saffi, eccetera. Bene, quando quei pochi giorni siete in piedi, il primo decreto che fece era proprio quello di requisizione di tutti gli alloggi sfitti per darli ai senza casa, punto, capite? Quindi, e non erano super rivoluzionari, anzi, diciamo, stavano dentro una rivoluzione borghese, non è che erano comunisti, non mi preoccupa, però chiaramente, volendo cambiare lo stato di precarietà e di devastazione, insomma, di malessere che c'era, hanno fatto questo primo decreto che è stato attuato subito, requisizione delle case sfitte, delle case poco abitate, e queste case venivano date ai senza casa. Non è che cambia, diceva quel gruppo che presideva questo decreto, dice: io non è che ti tolgo la proprietà della casa, rimane tua, però io la requisisco e la gestisco io e ci faccio mettere la gente che non c'ha casa, tanto semplice. Quello che per esempio oggi si potrebbe fare a Roma, perché sono tantissime le case sfitte, ma non lo fa nessuno, perché non, perché lo sapete voi perché, no? Quindi non ve lo dico io. E insomma, perché stanno coi palazzinari, quelli che stanno al governo del paese, della regione e del comune. Vabbè, diciamo, allora, quindi l'emergenza abitativa c'è sempre stata. E infatti l'occupazione delle case, io da quando ero piccolino, e ho un sacco d'anni adesso, mi ricordo l'occupazione delle case. Le faceva, le dirigeva questo, quel partito, quel sindacato, cioè, però si faceva. Attualmente le occupazioni di case continuano a esserci, anzi si diffondono sempre di più. Com'è la composizione di queste occupazioni di case? In gran parte degli immigrati. Cioè, queste prima erano al 99% di romani e al poche percentuali di provenienti da dintorni, anche, no? Molti venivano dai paesi di dintorni, non ho sbagliato a dire il 99%, dunque in gran parte erano romani, in preda alla emergenza abitativa, e però c'erano anche gente che veniva dai paesi di intorno a Roma o anche dall'Abruzzo e così via. Erano però questi la composizione degli occupanti di casa. Oggi, se lo vedete, un'occupazione di casa è molto diversa. La presenza di immigrati è tantissima, è prevalente. Stessa cosa avviene per esempio nella lotta, una delle lotte nel mondo del lavoro che è in ripresa, in grossa ripresa, e forse è l'unica lotta che è in avanzata rispetto alle altre lotte molto di resistenza e purtroppo in gran parte in arretramento. La lotta dei lavoratori della logistica, ossia della parte più bassa del mondo del lavoro della logistica. La logistica è quella che si occupa della movimentazione delle merci, cioè le merci le producono le fabbriche, poi vengono spostate dai grandi tir, no? questi grandi veicoli, dai articolati eccetera, li portano in questi magazzini dove vengono separate secondo la destinazione che deve avere, poi i furgoncini li prendono e li portano a destinazione. Questo grande movimento delle merci, che con la vendita in internet si è moltiplicato di molto, tantissimo, è enorme, occupa tante persone, impiegati, cose eccetera, e i facchini che fanno il lavoro proprio di prendere, scaricare i tir e sistemare queste merci e poi ricaricare i furgoncini. E queste persone sono in gran parte, se non nella totalità, migranti. Quindi sono in lotta. Quindi, come vedete, stanno già modificando la grossa presenza di immigrati in questo paese. Noi lo vediamo in questa città, ma non solo, perché Bologna, Piacenza, Milano è la stessa cosa, e anche altri, ma non faccio tutto l'elenco. Fa vedere come la mutazione della composizione dei proletari che stanno in situazioni basse, disagiate, cambia la loro voglia di organizzarsi e di lottare, cambia con la presenza di questi, cioè si aumenta la voglia di organizzarsi e di lottare. Perché? Perché non hanno tutta quella battaglia, non ha funzionato su di loro, perché non c'erano in Italia tutto quel battaggio pubblicitario, purtroppo, che ha funzionato per i lavoratori italiani, che ha detto state buoni, che se no va sempre peggio, non vi preoccupate, il padrone è l'unico che vi garantisce da mangiare, state dalla parte del padrone, non lottate, non si può fare niente e speriamo che domani sia meglio. Questo gli hanno insegnato, e questo purtroppo molti l'hanno recepito. Una grossa paura c'è, che è stata diffusa dai media terribilmente, e quindi c'è poca propensione a lottare. Mentre invece, laddove la composizione si è modificata grazie ai flussi migratori, la disponibilità a lottare è maggiore ed anche ad organizzarsi, e qui sta il punto. C'è anche una modificazione nel come organizzarsi in questa modificazione della composizione proletaria che è avvenuta grazie al flusso migratorio. È la stessa modificazione che subì per esempio le fabbriche del nord, Milano e Torino, la Fiat per fare un esempio, quando fu investita dal grosso movimento migratorio che proveniva dal sud. Quando questo movimento migratorio si inserì dentro i posti di lavoro, Fiat eccetera, e quando cominciò a manifestare la sua insofferenza, cambiarono anche le forme organizzative. Il sindacato di mestiere saltò e venne fuori un altro tipo di sindacato, il comitato, l'assemblea, cioè tutto il movimento degli anni 70 è dovuto in gran parte, per quanto riguarda i movimenti soggettivi di quell'area di lavoratori, alla immissione di forze fresche, immigrati che provenivano dal sud. Qui produrrà qualcosa di analogo, non sappiamo come, però andrà seguita giorno per giorno, però modificherà la composizione. Ne segue che anche la repressione si modificherà. Cioè, quello che si può dire è che il modo di organizzarsi di questi della nuova composizione proletaria, grazie ai flussi migratori, avrà molta più volontà di essere forte sul territorio, di auto-organizzarsi sui territori laddove lavora, c'ha la casa occupata, cerca di campare alla meno peggio, manda i figli a scuola e così via. E quindi la repressione arriverà lì per colpire. E infatti, anche dall'altra parte, cioè dalla parte di chi la repressione la gestisce, organi governativi, eccetera, si stanno muovendo per far sì che la repressione sia sempre più dislocata per aree sociali ed anche geografiche, quindi quartieri, territori, eccetera, e non per individui. Il vecchio pensiero liberale che ognuno deve essere punito per quello che fa, non per quello che è, né per la realtà a cui appartiene, è saltato da parecchio, quindi non se ne fa proprio ridere. Quindi la repressione arriverà nei quartieri, nei territori, e lì dovremmo trovarla. come si stanno preparando loro, l'abbiamo visto, ne abbiamo detto due cose l'altra volta, lo seguiremo attentamente perché cercheremo di capire come avverrà il meccanismo repressivo per territorio, per aree di appartenenza, su questa nuova composizione proletaria. Questo vedremo dettagliatamente per quanto è possibile nelle prossime trasmissioni. Bene, noi siamo arrivati al termine della trasmissione, sono le 16 e dunque non ci rimane che augurare a tutti e tutti una buona libertà, ma veramente, cioè che possiate lasciare quel brutto posto al più presto, considerando però, questo diamo un anticipo dei ragionamenti che faremo in seguito, che anche altri posti, voi se uscite dal carcere, e ve l'auguriamo al più presto, andrete sui vostri territori, dove lì arriverà anche lì la repressione, quindi in Campana. Carcere, territorio, sempre meglio.